Monti contro Equitalia, parole come pietre, pagare un dovere, poi si ridurranno le tasse. La classe dirigente italiana è la più vecchia d'Europa. Lusi accusa tutta la Margherita, soldi pure a Renzi, Rutelli sapeva. Terrorismo, 14.000 obiettivi a rischio vigilati. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracca. Il premier Mario Monti in visita all'Agenzia delle Entrate e porta il suo sostegno incondizionato ai lavoratori del fisco. Sentiamo in diretta Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è durata poco più di mezz'ora la visita del Premier alla sede di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate di Roma, un incontro a porte chiuse per ragioni di sicurezza. Monti ha voluto portare personalmente il sostegno incondizionato e la solidarietà ai lavoratori del fisco dopo gli attentati e le minacce terroristiche di questi giorni, aggressioni, ha detto Monti, che vanno condannate con fermezza. Contro di voi sono state usate parole come pietre, ha detto il Premier. I lavoratori degli enti di riscossione, ha spiegato, non fanno altro che applicare la legge, pagare le tasse è un dovere, poi possiamo e dobbiamo discutere su come ridurre la pressione fiscale. Monti ha sottolineato però che occorre costruire un nuovo rapporto tra cittadino e fisco dove questo diventi più efficace e meno intrusivo. Nel corso dell'incontro sono stati anche ricordati i dati sulla lotta all'evasione. Nel 2011 sono stati recuperati 12,7 miliardi di euro. Se tutti i contribuenti pagassero quanto devono, ha commentato il Premier, ognuno pagherebbe meno. Mentre il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha ammesso il nostro è un lavoro di criminalità della nazione, lamentando una divisione incredibile e un capovolgimento della verità. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi, scusateci per la cattiva ricezione. È probabilmente opera di un mitomane la lettera di minacce firmata dalla FAI e mandata alle redazioni di due quotidiani calabresi. Le parole sono come pietre, ha detto stamattina Monti ai vertici di Equitalia, al centro di attacchi e intimidazioni, non ultimi quelli portati avanti con due lettere inviate a Calabria Ora e alla Gazzetta del Sud. Tre pagine di minacce contro il presidente di Equitalia Sud, ma anche il presidente del Consiglio Mario Monti. Le buste, identiche ma arrivate a un giorno di distanza una dall'altra, sono state lasciate nella cassetta della posta. All'interno c'erano i fogli con l'intestazione del Nucleo Olga, Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale, la stessa sigla che ha rivendicato l'attentato all'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Ma nelle lettere, dicono gli investigatori, ci sono diversi elementi che fanno dubitare della loro autenticità. Il fatto stesso che Equitalia sia nel mirino, ad esempio. La riscossione in Italia, si legge, è divenuta una ruberia al popolo che sarà segnata con il marchio della vita, un messaggio distante, se non opposto, alla rivendicazione per l'attentato di Genova. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi avrebbe riferito alla Giunta delle Immunità di aver dato a Matteo Renzi 70.000 euro. Lusi avrebbe inoltre versato soldi a Francesco Rutelli e a Enzo Bianco. Problemi anche nella Lega. Bossi è coinvolto nell'inchiesta milanese insieme ai figli Renzo e Riccardo. Tra gli indagati c'è anche il senatore Pier Giorgio Stiffoni. Nel mirino del PM i rimborsi elettorali. Cambiano luoghi e protagonisti, ma resta simile il senso di queste storie in cui il tema è la fiducia e l'etica violata. Lo sanno bene gli elettori della Lega che si ritrovano tra le mani, giorno dopo giorno, la saga familiare della famiglia Bossi, scritta a colpi di migliaia di euro. L'ultima notizia è che Bossi sapeva che una parte dei soldi del finanziamento pubblico andavano come vitalizio di 5.000 euro al mese ai suoi figli. Secondo i magistrati, Riccardo e Renzo Bossi chiedevano all'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, di pagare i loro conti personali con i fondi del movimento. Belsito, secondo gli inquirenti, informava Bossi di queste uscite dalle casse della Lega. Per questa ragione è stata ipotizzata per Bossi l'accusa di truffa ai danni dello Stato. L'altra storia è romana. Nella Margherita facevo semplicemente ciò che mi veniva detto. Agivo su mandato dei dirigenti, tutelando le varie componenti. Questo è uno dei passaggi di Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, durante l'audizione alla Giunta delle Immunità di Palazzo Madama ieri. Lusi ha detto anche di aver dato 70.000 euro a Renzi. Il sindaco di Firenze però ha già detto che lo querelerà. Non c'è solo Renzi nell'elenco di Lusi, compaiono anche Rutelli e Enzo Bianco, che invece riceveva un mensile di 3.000 euro, poi passato a 5.500. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora per le reazioni politiche ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, Buongiorno reazioni nella Lega sull'inchiesta che coinvolge Umberto Bossi e nella Margherita per le accuse dell'ex tesoriere Lusi. Reazioni quindi da parte leghista per Matteo Salvini che è intervenuto a 24 mattina. Andiamo avanti a prescindere dai nomi, un errore portare Renzo Bossi in politica ma comunque non farà mai più nessun tipo di attività. Questa è la risposta da dare ai militanti e agli elettori. I figli di Bossi, assicura poi Salvini, restituiranno fino all'ultimo quattrino. Nella Margherita invece si difendono coloro che sono accusati appunto da Renzo Lusi. In una nota interviene Enzo Bianco, tutto ciò di cui si parla in merito ai fondi della Margherita è stato fatto alla luce del sole com'è nella mia storia e nella mia tradizione politica. Cercare di distrarre l'attenzione dalle malversazioni e di intimidire mi suscita profonda indignazione. E il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, scrive su Facebook: ci vogliono far passare per ladri di polli, ci accusano per far credere che siamo tutti uguali. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Bisogna trovare la capacità di convergere non solo sui principi fondamentali, ma sui grandi interessi nazionali comuni. È quanto chiede il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rispondendo ad una domanda sullo stato del dialogo tra le forze politiche per le riforme istituzionali. La Grecia ha un governo provvisorio composto da 16 ministri, per lo più alti funzionari statali e docenti universitari, che avrà il compito di portare il paese alle nuove elezioni legislative che si terranno il prossimo 17 giugno. L'esecutivo ad interim è guidato da Panayotis Pikramenos, di 67 anni. E la possibile fuoriuscita dall'euro della Grecia condiziona i mercati finanziari. Per l'aggiornamento sui mercati sentiamo Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Adriana, ai nostri ascoltatori. Una mattinata davvero molto nervosa per quel che riguarda i listini del vecchio continente. Tutti in calo, Parigi cede uno 0,88%, Francoforte lo 0,76%, Londra cede un punto percentuale, giù anche l'Ibex a Madrid che cede un punto e mezzo circa. La peggiore però resta Milano, dove il FTSE MIB cede l'1,99%, il FTSE All Share l'1,86%. Molto pesante tutto il comparto bancario che trascina al ribasso il listino principale. Il peggior titolo è Monte dei Paschi che cede il 6,5%, ma giù anche Unicredit che cede il 5,91%, la Popolare di Milano il 4,78%, Mediolanum il 4,5%, il Banco Popolare il 4,13%. Mediobanca cede il 3,81%, Intesa San Paolo 3 punti circa. Il titolo migliore è Fiat Industrial che guadagna l'1,67% e che quindi ridimensiona i guadagni rispetto alle prime battute della seduta. Tod's guadagna lo 0,68%, in positivo poi ancora Pirelli, Luxottica e Campari, dopodiché tutti segni negativi. Fortemente sotto pressione l'euro sul dollaro, 1,26,87 il cambio in questo momento. Anche per quel che riguarda i titoli di Stato, in questo momento il differenziale tra BTP e Bund è a quota 446, quindi in rialzo, e anche per quel che riguarda il differenziale tra bonus e Bund, quindi titoli spagnoli e titoli tedeschi, 493 punti base in netto rialzo. Dopo l'asta dei titoli spagnoli, un'asta che ha visto la collocazione di titoli per 2,5 miliardi, ma con tassi di interesse in forte rialzo. E per i mercati è tutto. Grazie Valeria De Rosa. L'Italia è il primato europeo di anzianità della classe dirigente, un'età media di 59 anni. Il record è per i manager delle banche, a pari merito con i vescovi in carica, e i rappresentanti del governo, rispettivamente 67 e 64 anni, seguiti dai professori universitari con 63 anni. I più giovani sono i dirigenti delle aziende quotate in borsa con 53 anni. È quanto emerge dal primo report sull'anagrafe dei potenti italiani nel tempo della crisi, presentato oggi nel corso dell'Assemblea dei Giovani della Coldiretti. Chiude con un nuovo record di share quello che non ho, l'ultima puntata del programma di Fabio Fazio e di Roberto Saviano, ottenuto ieri sera sulla 7, il 13,06% di share, pari a 2.816.000 telespettatori, migliorando in percentuale la performance dell'esordio a 12,66% con 3.036.000 telespettatori. Ma sentiamo Saviano e Fazio nel programma di ieri. Quello che ho sono molte parole che ci avete mandato. Quello che ho è la parola patria, ce l'ha mandata a Mefengia, un paese che abbia il coraggio di chiamarmi nero e non di colore, un paese che abbia il coraggio di pagarmi come avevamo concordato e non come vuole, un paese che mi chiama Mefengia e non Mario, perché dice che il mio nome è impronunciabile. Un paese che mi dice che pagare le tasse è un dovere, ma votare non lo è. Quello che ho è la parola ansia, ce la manda Anna e dice: quello che ho è l'ansia, mio figlio si trova in una missione di pace. E Roberto Saviano avrebbe citato per danni il Corriere del Mezzogiorno, sentiamo. Benedetto Croce avrà avuto 17 anni e si trovava a Ischia quando nel tinello di casa sua vede d'improvviso suo padre ondeggiare e poi sprofondare, terremoto. Sente la voce del padre che poco prima di ispirare dice: Benedetto, offri 100.000 lire a chi ti salva. Quanto valgono oggi le 100.000 lire che Benedetto Croce avrebbe offerto, ormai 130 anni fa, subito dopo il terremoto di Casamicciola, per essere salvato? Almeno 4,7 milioni di euro, secondo Roberto Saviano. O almeno a tanto ammontano i danni che lo scrittore di Gomorra avrebbe chiesto all'editore del Corriere del Mezzogiorno, secondo quanto scrive oggi il direttore Marco De Marco. La polemica intorno all'episodio, raccontato da Saviano durante la trasmissione Vieni via con me, risale a un anno fa. La nipote di Benedetto Croce, Marta Herling, ne aveva contestato la veridicità proprio sulle pagine del quotidiano di Napoli. Oggi la notizia della citazione per danni. A decidere se quell'offerta c'è davvero stata, ora saranno i giudici. Lucio Bondì, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ben ritrovati da Adriana Fracchia, anzitutto i titoli delle notizie principali. Monti contro Equitalia, parole come pietre, pagare è un dovere, poi si ridurranno le tasse. La classe dirigente italiana è la più vecchia d'Europa. Lusi accusa tutta la Margherita, soldi pure a Renzi, Rutelli sapeva. Terrorismo, 14.000 obiettivi a rischio, vigilati. In primo piano proprio l'allarme per un ritorno del terrorismo, 14.000 obiettivi a rischio vigilati, in diretta dal Viminale, tutti gli aggiornamenti da Monica Ceravolo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Potenziare il lavoro di intelligence e rafforzare i dispositivi di sicurezza nei confronti degli obiettivi sensibili, anche se rimane invariato il numero delle forze dell'ordine impegnate. Questa la risposta del Viminale all'allarme terrorismo. Il ministro Anna Maria Cancellieri, che stamane ha presieduto la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ha ribadito che occorre mantenere alto il livello di attenzione. È stato quindi rimodulato l'impiego dei militari impegnati nelle vigilanze fisse e mobili. Attualmente, come avete anticipato, si contano oltre 14.000 obiettivi a rischio, mentre sono 550 le persone sottoposte a tutela o scorta. Ma per neutralizzare il pericolo di eventuali atti eversivi e sul lavoro degli 007 che Viminale punta attraverso anche la collaborazione con il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, allo scopo di aumentare lo scambio di informazioni tra i vari organismi di intelligence e le forze di polizia, non solo nazionali ma anche straniere. A preoccupare infine sono anche le reazioni sociali legate alla crisi del mondo del lavoro, tanto che sono state invitate le prefetture di tutta Italia a monitorare con attenzione eventuali episodi di tensione. Ed è tutto, vi ridò la linea. Grazie Monica Ceravolo, intanto oggi Genova si ferma. 9 morti, 14 feriti, una città per lunghi anni in ostaggio del terrore. Dopo il colpo di pistola sparato alle gambe di Roberto Adinolfi oggi pomeriggio, Genova scende in piazza per respingere gli incubi di quel passato e compattare un sentimento di condanna contro la violenza che minaccia di incunearsi tra il disagio sociale ed economico. La manifestazione è organizzata dalle istituzioni con l'adesione di sindacati, associazioni, forze imprenditoriali e politiche. Concentramento alle 16.30 in largo 12 ottobre davanti al monumento che ricorda il sacrificio di Guido Rossa, l'operaio ucciso perché aveva avuto il coraggio di denunciare un brigatista infiltrato all'Italsider. Poi il corteo raggiungerà Piazza De Ferrari, sul palco parlerà Massimo Coco, uno dei figli del procuratore generale assassinato insieme alla scorta l'8 giugno 1976. Questa la sua riflessione. Abbiamo sempre avuto la certezza che il pericolo fosse sempre e comunque alto. Oggi, per fortuna, però, l'attenzione verso questo cancro della società civile, che è ormai il terrorismo, che è un fenomeno criminale endemico, l'attenzione, l'allarme è partito subito e con una risposta che mi pare molto pronta. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. E 40 anni fa a Milano invece il delitto calabresi. Il 17 maggio 1972 il commissario Luigi Calabresi venne trucidato sotto casa in largo Cherubini, un delitto per il quale nel 97 sono stati condannati in Cassazione Ovidio Bonpressi, Adriano Sofri e Giorgio Pietro Stefani. Nel giorno della commemorazione del quarantennale dell'omicidio, Il questore di Milano, Alessandro Marangoni, usa parole di riconciliazione e parla di un momento di riflessione sulla morte di Giuseppe Pinelli. L'anarchico fermato per la strage di Piazza Fontana, precipitato il 15 dicembre del 69 dalla finestra dell'ufficio di Calabresi, in seguito dirà il processo ad un malore. C'è stata da tempo una stretta di mano tra la vedova di Calabresi e la moglie di Pinelli, ha ricordato il questore. Credo dunque possa essere il tempo di una riflessione che serva a creare un ancor miglior clima di riconciliazione. L'idea è dunque quella di una lapide per Pinelli, anche se, precisa il questore, per il momento non ci sono né tempi né luoghi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13.45 ad America 24 va in onda un'intervista di Mario Platero al ministro guardasigilli Paola Severino. Ecco uno stralcio dell'intervento sul tema del rapporto tra giustizia e imprese. Sono stata in particolare ieri al New York Exchange dove ho presentato agli investitori questa novità che è volta proprio a creare per le imprese un tipo di processo più celere e nel quale vi sia più prevedibilità del risultato. Noi abbiamo costituito attraverso il Tribunale delle Imprese un tribunale estremamente specializzato, attraverso giudici che si occupano esclusivamente di quella materia e che quindi con la specializzazione nella materia delle imprese acquisiscono quella particolare sensibilità alla materia che consentirà loro di emanare sentenze che, tenuto conto della peculiarità della materia, saranno certamente, sotto il profilo della certezza del diritto, più vicine ad un modello di tipo anglosassone. È stato sospeso all'AIA il processo contro Ratko Mladic. Il procuratore avrebbe compiuto errori nel mostrare alla difesa le prove contro l'ex generale. L'attenzione oggi era sul genocidio di Srebrenica. Sentiamo l'opinione di Ennio Remondino, inviato della RAI nei Balcani negli anni della guerra, al microfono di Francesco Riccardi. Bisogna vedere come questo processo si svolge. 400 testimoni mi sembra uno sproposito. Sarà da discutere l'ipotesi di reato di genocidio, perché giuridicamente è stato mal definito, sperando che non accada come con Milošević, che l'imputato arrivi ad ottenere un giudizio prima della sua morte. Poi sarebbe interessante che il Tribunale dell'AIA arrivasse a colpire anche un po' di altri colpevoli di massacri minori, tra virgolette, ma che hanno provocato decine e decine di vittime e sicuramente hanno fomentato gli odi incrociati tra le varie etnie e appartenenze nei Balcani. Parti di mura della facciata della chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma, che custodisce tra l'altro il Mose di Michelangelo, si sono staccate precipitando sul sagrato. I vigili del fuoco hanno transenato l'angolo tra la piazza di San Pietro in Vincoli e via delle Sette Sale. In chiusura parliamo di calcio, di Coppa Italia. L'ipotesi che la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli in programma domenica sera all'Olimpico a Roma potesse saltare causa mancata discesa in campo delle navette dell'ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici capitolina, per qualche ora ieri è stata più che concreta. Tutta colpa della querel tra Campidoglio e Legacalcio sul costo e relativo pagamento del servizio per i tifosi partenopei e bianconeri. Come dire che il mancato passaggio del bus 32 o del 2 che fa capolinea a Piazza Mancini o della linea 280 avrebbe potuto cancellare l'addio alla vecchia signora di Alex Del Piero. Sarebbe stata la ciliegina amara sulla torta sfatta del nostro football, dopo un campionato di isterismi e paradossi e dopo che la stessa sede dell'Olimpico e di Roma era stata messa in dubbio nelle scorse settimane dal presidente partenopeo De Laurentiis. Alla fine invece le navette ATAC per trasportare i tifosi verso lo stadio ci saranno. Il Campidoglio sosterrà le spese per trasporti e polizia locale, mentre la Lega Calcio devolverà l'1% dell'incasso dei biglietti ai centri anziani di Roma. Ovvio, a questo punto, l'obbligo per gli ultra di cedere il posto a sedere sul bus a eventuali nonni tifosi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia a Paolo Corleoni. Un saluto, un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchi. È tutto per questo notiziario, appunto. Vi lasciamo ora con gli aggiornamenti dal Giro d'Italia. GR24 torna invece alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.